soldi e dintorni. Eccoci. Ho uno scoop. Addirittura. Sì. Siamo tutti orecchi. So che stasera vai a giocare a calcetto. Oh, ma come tutti i martedì, peraltro. Vabbè, allora non è una grande notizia. Che giornalista proprio da quattro soldi che sono. Sì, sì. Allora, buongiorno Alessandro. Oggi esploriamo con il nostro ospite di questa mattina un territorio che per alcuni ascoltatori potrebbe essere un po' oscuro, ma noi ovviamente lo esploriamo proprio con l'obiettivo di capire meglio di che cosa si tratta, anche perché quello di cui vogliamo parlare, abbiamo pochissimi minuti, è uno degli argomenti di più stretta attualità in questi giorni. Ne leggiamo su tutti i giornali e magari molti non hanno capito, come capita a volte per molte notizie, di cosa si tratta esattamente. Sono gli stress test alle banche europee. Venerdì prossimo, il 23 luglio, saranno resi pubblici i risultati. Questa è una valutazione molto importante che metterà alla prova 91 istituti europei, fra cui 5 grandi banche italiane. Sono il Banco Popolare, Intesa San Paolo, UbiBanca, la Popolare di Milano, Unicredit e Monte dei Paschi. Allora, ci saranno bocciati e promossi? In che senso? Che riflessioni possiamo fare sulle banche italiane? Se risultassero bocciati da questi test, tutti a fare gli scongiuri in questi minuti. Buongiorno al dottor Mario Noera, presidente dell'AIAF, l'Associazione Italiana degli Analisti Finanziari. Benvenuto a Soldi e Dintorni. Buongiorno Deborah, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, chiariamo ai nostri ascoltatori, dottor Noera, lei questa mattina si deve vestire, non farà molta fatica perché nella vita lo fa già da professore. E allora, se gli ascoltatori volessero verificare, insomma, questi test, magari capire un po' meglio quello che leggono dai giornali, chi sta svolgendo questi controlli e soprattutto qual è il motivo per cui ci sono queste verifiche? Dunque, il motivo del... Intanto cosa sono gli stress test? I stress test sono delle simulazioni numeriche, quindi sono degli esperimenti di laboratorio, non comportano nessuno shock effettivo. Allora, un attimino, professor Noera, perché adesso non la sento bene, non lo sentiamo proprio. Abbiamo perso la telefonata, ma la nostra Sara Spirafico sta rivolando appunto in diretta per ripristinare il collegamento telefonico. Ovviamente queste sono cose che capitano e subito mi è corso in soccorso Alessandro Milan, perché naturalmente... Con uno scatto da calcetto. Esatto, infatti. Volevi spiegarmi tu che cosa sono gli stress test? No, guarda, io infatti stavo ascoltando con molta attenzione, non ti sei accorta sugli stress test cosa sono? Io ho alzato la mano. Subito che volevi fare l'interrogazione. Professor Noera, che cosa è successo? Si è fatto male, no? Allora, stavamo spiegando che praticamente sono delle simulazioni. In sostanza le banche vengono messe alla prova, teoricamente, e quindi si cerca di capire come potrebbero reggere i loro conti, i loro bilanci rispetto ad un disastro. So che per esempio è stata fatta anche la simulazione di un eventuale default della Grecia e come le banche lo potrebbero subire. Sì, infatti, cioè queste simulazioni sono fatte dalle autorità centrali, dalla Banca Centrale Europea e poi a livello nazionale delle varie banche centrali, in funzione proprio di ratare eventuali sospetti che sul mercato possano rimanere sulla solidità delle singole banche in casi molto negativi. I due eventi più negativi che possono, come dire, colpire le banche sono o una ricaduta nella recessione economica, cioè un rallentamento economico molto forte che faccia aumentare le difficoltà delle imprese che ricevono crediti dalle banche, che diventano poi perdite per le banche. Cioè, circostanza peraltro, professor Noera, della quale si sta parlando e quindi non dovrebbe neanche cogliere le banche più di tanto di sorpresa questa circostanza. Perché le banche poi pian pianino accumulano fondi a fronte di queste potenziali perdite. E l'altra più rilevante possibilità avversa da testare è la possibilità, ancorché remota, ma che va comunque verificata, di difficoltà di titoli di Stato di un qualche paese sovrano, soprattutto europeo, cioè quindi o fallimenti o ristrutturazione del debito di questi Stati, per vedere se questi possono avere ricadute molto negative sulle banche. E questo è l'elemento fondamentale, se le banche sono già dotate di abbastanza capitali propri per fronteggiare quelle eventuali perdite. Allora, teoricamente, secondo quelle che sono le indiscrezioni che sono emerse fino a questo momento, non tutte le banche sarebbero ben patrimonializzate per far fronte alle anche peggiori circostanze economico-finanziarie mondiali, e però poi insomma tutto questo lo vedremo il 23. C'è già una banca tedesca che non avrebbe passato gli stress test condotti sulle banche europee, appunto la Hypo Real Estate. Questa però è un'indiscrezione appunto di stampa e ripeto, vedremo solo venerdì se queste indiscrezioni saranno confermate. Secondo lei a questo appello le banche italiane interessate a queste simulazioni come si stanno presentando? Visto che tutti continuano ancora a rassicurarci sul fatto che le banche italiane stanno scampando molto bene la crisi rispetto a tutti gli altri istituti di credito mondiali. Dunque diciamo che stress test sono stati anche, come dire, emulati da molte investment bank, sono fatti molti esercizi per cercare di anticipare quello che può essere il risultato. Da tutti questi esercizi le banche italiane escono bene, anche perché si sa che sono generalmente, nella loro generalità, meno esposte rispetto a titoli sovrani di stati, diciamo, deboli o a rischio di altre banche europee. Quindi in linea generale le banche italiane dovrebbero essere meno esposte a questa tipologia di rischi e anche apparirebbero più patrimonializzate nella media di quello che le autorità ritengono essere la soglia, diciamo, accettabile di livello di capitale. Quindi le banche italiane, nella loro generalità, dovrebbero uscire abbastanza bene da questo esercizio, tenendo conto di una cosa importante: qui non stiamo parlando di esercizi che definiscono la quantità di capitale necessaria in termini assoluti, cioè nel senso se ne hanno abbastanza in generale, ma se ne hanno più della soglia minima in caso di perdite molto gravi, e questa soglia minima appunto è l'asticella sulla base della quale le autorità si riservano di chiedere a queste banche eventualmente di integrare il capitale che hanno già per ragioni di sicurezza a fronte di questi rischi estremi. Un ultimo minuto e mezzo, professor Noera, poi la lasciamo. Si attende ovviamente in maniera febbrile questo appuntamento del 23 luglio. Ammettendo che alcune banche non dovessero passare questo test, io vorrei anche rassicurare i nostri ascoltatori, tutto al più appunto questo comitato europeo che li sta facendo dirà: attenzione, non avete superato questa verifica e quindi dovete patrimonializzarvi, ma non è che assisteremo a crolli di mercato, a un effetto dirompente in borsa. Che cosa ne pensa? Possiamo rassicurare in questo senso? Molto attente, ecco. A questo, era uno dei grandi dubbi che circolavano nei giorni scorsi, però l'Ecofin, diciamo, del 13 di luglio, quindi dell'altro giorno, ha chiarito bene che cosa avviene. Le autorità sono comunque hanno già definito una procedura per evitare che queste eventuali notizie possano avere effetti destabilizzanti sul mercato, sia nelle modalità di comunicazione, che saranno contemporanee a mercati chiusi e così via, sia nel caso che alcune singole banche possano risultare non sufficientemente capitalizzate, allora in quel caso, se le difficoltà dovessero essere superiori al previsto, c'è una procedura perché i governi intervengano per poterle, come dire, aiutare. Quindi i rischi di un possibile contagio, secondo me, sono assolutamente nulli, e anche per quelle banche che dovessero trovarsi in una situazione di necessità di aumentare i propri capitali, non dovrebbe avere effetti destabilizzanti neanche per quelle singole banche. E probabilmente perché questa banca lo sa già, professor Noera, mi viene anche da dire, esatto, quindi le sorprese, insomma, non ci dovrebbero essere, importanti, no? È stata non preparata con molta cura. Comunque noi venerdì ritorneremo su questo argomento anche a Salvadanaio. Professor Noera, intanto grazie per essere stato con noi, le auguro una buona giornata. Grazie a lei, Deborah, grazie a tutti. Alessandro, eccoci qua. Qua ci danno delle tortore. Perché? Tubiamo come tortore. Oh, santo cielo, guarda. È inutile negare l'amore reciproco. Non negare. È vero, basta. Dobbiamo confessarlo a tutti prima del termine di questo ciclo di soldi e dintorni di mattino 24. Io, te, qua e l'alpino Bescapè che ci ascolta. E basta. Ah, c'ha la penna stamattina in testa. È un alpino, lui c'ha la penna sempre. No, pensavo solo che fosse un atleta di una disciplina sportiva molto, molto interessante, peraltro. Parlo di multe oggi a Salvatore. Da noi tutte le novità del codice della strada. Ciao ciao. Benissimo, ciao. Noi parliamo della vicenda, le contestazioni, le polemiche, l'anniversario della strage di Via D'Amelio. Nel nostro sondaggio di oggi vi chiediamo: secondo voi, come ha detto Napolitano, bisogna fare luce sulle stragi, si arriverà mai a una verità? Ne parliamo tra pochissimo, questo è il nostro sondaggio, radio24.it, oppure se volete intervenire 800 24 0024, in diretta tra poco. Alle 8.32 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Parliamo dell'anniversario della strage di Via D'Amelio nel nostro sondaggio di oggi. Io sono o blanco o nero, gris non voglio essere in mia vita. Bianco o nero? Il numero per intervenire 800 24 0024, il numero per i vostri messaggi sms al 349 238 6666. Quello che vi chiediamo alla dopo che Napolitano ha detto bisogna fare luce sulle stragi di mafia, vi chiediamo, secondo voi ci sarà mai questa verità su questa pagina della storia italiana 1992, in particolare le uccisioni prima di Falcone e poi di Borsellino. Ieri l'anniversario della strage di Via D'Amelio con l'uccisione di Paolo Borsellino, la sua scorta, e io lo voglio ricordare, l'ho fatto anche ieri in rassegna stampa, perché non si ricorda mai, non si sa perché, anche la presenza di Antonino Vullo, uomo della scorta di Paolo Borsellino, l'unico sopravvissuto a questa strage di Via D'Amelio. Però siccome è sopravvissuto, ha questa colpa di essere vivo, non viene neanche mai citato, mai nominato. Allora, le polemiche ci sono state, io voglio salutare Salvatore Borsellino, buongiorno Salvatore, buongiorno, ben ritrovato, buongiorno. Fratello di Paolo Borsellino. Senta, intanto io voglio far ascoltare quello che lei ha detto ieri, captato durante la manifestazione, sulla vicenda, una delle vicende che ha creato più polemiche. Sentiamo, l'audio non è magari perfetto, ma proviamo. Se, diciamo, fosse confermata la notizia che in via D'Amelio dovesse andare Schifani, questo sarebbe veramente un tranello perpetrato da chi ci ha assicurato che Schifani non sarebbe venuto, e poi approfitta del fatto che noi del Cortino stiamo andando all'albero del Falcone. Vabbè, poi c'è un audio sopra che va a sovrapporsi, ma il concetto è: se Schifani c'è, è un tranello che non va bene. Allora, Salvatore Borsellino, questa è una delle polemiche: perché Schifani, il presidente del Senato, non poteva venire mentre Fini è stato gradito? Allora, le spiego. Il presidio che noi abbiamo fatto ieri in Via D'Amelio proprio per l'anniversario di Paolo era stato fatto appunto per evitare che delle, chiamiamole tra virgolette, autorità o rappresentanti delle istituzioni venissero a porre delle ipocrite corone in Via D'Amelio, e di conseguenza il fatto che Schifani venisse, poiché io ritengo che Schifani sia una persona che non occupi degnamente la sua carica, che è una delle cariche più alte del paese, noi prima di tutto vogliamo giustizia, vogliamo la verità, dopo potremo accettare che delle rappresentanti delle istituzioni vengano in Via D'Amelio, prima di allora no. Non è che Fini sia stato tradito, innanzitutto non è venuto solo Fini, è venuto anche il presidente della commissione antimafia in Via D'Amelio. Ci è stato chiesto se gradivamo che venisse a salutare Paolo in Via D'Amelio, e noi lo abbiamo accettato che venisse. E capisce, però questa è la critica, a dire perché alcuni sì, altri no, cioè il monopolio quasi della memoria, insomma. Non si tratta di un monopolio, si tratta del fatto che io ritengo che alcuni rappresentanti delle istituzioni dovrebbero ricordarsi ogni giorno di Paolo, dovrebbero ricordarsi ogni giorno del fatto che noi viviamo in una Repubblica che è fondata proprio sul sangue di quelle stragi, e quindi non venire semplicemente un giorno a ricordare Paolo Borsellino. O certi impegni si svolgono durante tutto l'anno, e soprattutto non si approvano in Parlamento delle leggi liberticide come la legge sulle intercettazioni o come altre leggi che fanno sì che di togliere ai magistrati le armi, la possibilità per poter fare il loro lavoro, e quindi anche la possibilità di poter arrivare alla giustizia e alla verità. Queste istituzioni non le volete, però voglio dire, e questa è la questione, cioè Fini è presidente della Camera, sappiamo che ci sono, diciamo, qualche mal di pancia, diciamo così, all'interno della maggioranza, però presiede la Camera, è la terza carica dello Stato, anche lui insomma è una carica importante parlamentare, voglio dire, e invece Fini è venuto, tra l'altro Fini ha detto questa cosa sulla vicenda di Mangano, anche questa ha creato ovviamente grandi opinioni e grandi commenti oggi sui giornali, commenti anche polemici. Voglio farvela ascoltare, abbiamo recuperata quello che Gianfranco Fini ha detto di Vittorio Mangano. Vittorio Mangano era lo stagliere ad Arcore che poi è stato condannato anche, non in via definitiva, poi è morto, ma insomma è stato condannato e è stato accusato di mafia anche. Mangano è un cittadino italiano che è stato condannato, è un cittadino italiano che è stato condannato con sentenza definitiva perché accusato, sospettato e accusato di essere un mafioso. Quindi certamente non può essere considerato un esempio, men che meno un eroe. Allora, Borsellino, Salvatore Borsellino, ecco. Che? Ecco, bene, perché Fini è potuto venire ed altri non sono potuti venire, perché Fini ha preso una posizione come quella di ieri, altri considerano Mangano un eroe. Allora chi considera Mangano un eroe non è gradito in via D'Amelio, ecco la differenza. Non è Schifani, però non penso che abbia mai detto assolutamente, insomma, che... No, lui non l'ha detto sicuramente, diciamo, però certe posizioni che ha assunto per quanto riguarda appunto legge sulle intercettazioni e altro, a parte, mi scusi, Schifani è una persona che è stata, ha intrattenuto rapporti societari con delle persone che poi sono state condannate per mafia. Mm. Ecco, questo tipo di persone che hanno in qualche maniera qualche, una macchia di questo tipo sulla propria... Perché una macchia? Questa è una polemica. Io so che, vabbè, per carità, come lei è una persona che come sa, si assume la responsabilità di quello che dice. È quello che poi ha detto, certo, sempre, certo. Travaglio, cioè avere intrattenuto rapporti con persone 20 anni dopo, 25 anni dopo, poi sono finite in fatti di mafia. Schifani ha sempre detto, io come guardi, potevo... A Palermo i mafiosi li conosciamo ancora molto prima che vengano condannati, quindi... Quindi doveva saperlo. Senta, le chiedo, ieri il procuratore Gozzo, che da Caltanissetta indaga con la procura capeggiata da Sergio Lari sulla riapertura delle indagini della strage di Via D'Amelio, ha detto l'uccisione di Paolo Borsellino è legata ai cosiddetti presunti amici, all'isolamento che ebbe in quegli ultimi giorni, in quell'ultima fase di vita, il giudice Borsellino. A quali amici bisognerebbe guardare? Amici ovviamente tra virgolette, secondo lei? Guardi, io in queste cose non uso pronunziarmi, queste cose deve indagare la magistratura, io non posso fare riferimento a persone o ad ambienti per i quali non sono stati ancora avviati dei procedimenti giudiziari. Quindi su questo non si vuole, però il fatto che dell'isolamento di suo fratello lei... Sicuramente no. si può parlare, sicuramente no, l'isolamento sicuramente c'era per Paolo, esattamente così come c'era per Falcone, comunque che l'assassinio sia dovuto all'isolamento, questa è un'altra questione. Mm. L'altra questione è, sulla quale lei batte da sempre, mio fratello fu ucciso perché c'era una trattativa Stato-mafia alla quale lui si era opposto. Su questo però non c'è ovviamente una prova documentale, una prova processuale di quello che lei dice. Insomma. No, però una prova processuale non ancora, sicuramente, però ci sono delle indagini in corso presso la Procura di Caltanissetta che vanno esattamente in questo senso. Antonio Ingroia ha detto, ad un incontro che abbiamo avuto qui a Palermo nei giorni scorsi, ha detto che siamo arrivati nell'anticamera della verità, dice, è necessario, ha aggiunto, che però, come è successo altre volte nel corso, dopo da 18 anni a questa parte, una volta che si arriva nell'anticamera della verità, certe porte non si chiudono e non si chiudono definitivamente. E questo, io penso che siamo arrivati molto vicini. Vedete, di questa trattativa fino a qualche tempo fa non parlava nessuno, adesso improvvisamente in tanti cominciano a ricordare che questa trattativa c'è stata, che di questa trattativa sapevano. Io mi chiedo perché allora hanno taciuto per 18 anni prima di ammettere che di questa trattativa erano a corrente. Sono stati parecchi personaggi a farlo, e anche in ambito istituzionale, l'ha detto Martelli, l'ha detto Violante, l'hanno detto altri, sì. Questa trattativa c'è stata, fino a qualche tempo fa veniva negata addirittura l'esistenza di questa trattativa. Allora, rimanga con noi Salvatore Borsellino, forse sentiamo anche la voce un pochino che è andata nelle varie manifestazioni, la voce non perfetta, non squillante come al solito, ma insomma ieri sono state giornate queste anche molto, molto intense dal punto di vista emotivo, come al solito. Io voglio salutare, ci sta ascoltando Gianluigi Nuzzi di Libero, buongiorno Nuzzi, ben ritrovato. Buongiorno a voi. Allora, abbiamo ascoltato anche Salvatore Borsellino, la sua posizione sempre molto critica, sulla quale Libero è anche sempre molto critico, a dire è una posizione molto estremista nella famiglia Borsellino. Che ne pensa sulla vicenda, anche sul fatto Schifani sì, Schifani no, Fini sì, e su tutte le polemiche che ne sono conseguite, anche sulla posizione di Fini, che qualcuno dice un ennesimo, per esempio il Corriere lo dice, Massimo Franco, è un ennesimo strappo all'interno della maggioranza, questa dichiarazione molto forte su Mangano? Beh sì, sono due cose molto correlate tra loro, nel senso, a me personalmente fa rabbrividire che la seconda carica dello Stato non possa andare in una via pubblica e in una città pubblica a ricordare pubblicamente la vittima e un eroe che è stato, qual è stato Paolo Borsellino. Penso che su questo siamo tutti d'accordo, nel senso, ma eroe con la E maiuscola, non con la E minuscola come quello che è stato, come è stato definito Mangano. Però anche lì bisognerebbe contestualizzare la frase, perché sia Dell'Utri che Berlusconi hanno indicato, hanno usato questo provocatoriamente questa parola, ed è evidente che c'è un uso provocatorio della parola eroe riferito a Mangano, ma contestualizzato, cioè hanno detto è un eroe perché Berlusconi l'ha detto più volte, Mangano io lo considero un eroe perché ammalato, malato, gravemente in carcere, gli hanno proposto di accusarmi di ogni cosa e lui è stato zitto e non ha assecondato le fantasie, questa è la posizione di Berlusconi, le fantasie accusatorie che volevano attaccarmi di mafia. Allora i casi sono due, o Berlusconi sta inventando o Berlusconi racconta un fatto che è gravissimo. Non mi risulta che però su questa denuncia di Berlusconi siano state fatti i dovuti accertamenti, cioè qui abbiamo un Presidente del Consiglio che dice hanno cercato di condizionare un mafioso perché mi accusasse falsamente in carcere, cioè questo lui no, invece ci fermiamo all'appellativo provocatorio, sì. Provocatorio e anche fastidioso, ovviamente, perfettamente, perché dire sì, che ieri Dell'Utri ha ribadito dicendo questa versione, appunto, è stato accusato, è stato spinto a fare il mio nome, non lo ha fatto, quindi per me è un atteggiamento questo eroico, certo. Questo appellativo accostato. Sono due parole che unite, adesso io mentre vi parlo ho un brivido alla schiena, perché la parola eroe andrebbe usata ovviamente con la dovuta attenzione, quindi non si può spargerla sui capi di chiunque. Quindi fatto questo spartiacque, e su questo io condivido quello che dice Fini, cioè gli eroi stanno dalla parte della legalità e della giustizia, non stanno dalla parte dell'associazione di stampo mafioso, questo mi pare scontato, ma forse scontato sì. Oggi non è più nulla nel nostro paese. Detto questo, quella frase andava contestualizzata. Su Schifani, io la dico, che ci siano, con tutto il rispetto, lo dico del fratello del giudice di Salvatore Borsellino, con tutto il rispetto possibile, perché ci mancherebbe altro se non si ha rispetto per i parenti di una persona che non c'è più, di un giudice che si è impegnato, quindi con il massimo rispetto, però io lo trovo avvilente che dei privati cittadini possano dire alle cariche dello Stato tu sì, tu no. Io posso capire la prostrazione, posso capire la rabbia che c'è dentro nel vedere la fatica che questo paese fa a recuperare i pezzi di un mosaico che si chiama la verità sulle stragi, però non dobbiamo sostituirci a nessuno, non dobbiamo compiere delle scorciatoie dicendo addirittura rispetto al Presidente del Senato, visto che tu 20 anni fa eri in società non so più con chi, perché anche Travaglio allora andava in vacanza con persone che poi si scopriranno mafiose, ma questo non vuol dire nulla. Vabbè, no? Adesso qua poi Travaglio non c'è per replicare, in ogni caso il traffico, e poi sentiremo anche cosa ne pensa qualche ascoltatore di questa vicenda e sulla domanda che noi poniamo, ci sarà mai la verità secondo voi? Per ora prevale un 81%, abbastanza sconsolante, 82% di no. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Allora 800 24 00 24, come detto l'82% degli ascoltatori che vota su Radio24.it alla domanda secondo voi ci sarà mai la verità, come ha detto Napolitano, cioè bisogna fare luce sulle stragi, dice di no. In ogni caso sentiamo qualche ascoltatore. Giuseppina da Modena, buongiorno e benvenuta. Grazie. Grazie, buongiorno a voi e grazie per avermi fatto interessare. Sono un po' emozionata. Non lo sia, siamo quattro amici. Sono emozionata perché vivo a Modena, ma sono palermitana. E allora ho telefonato per questo, perché vorrei paragonare Palermo, vorrei parlare di Palermo come una metafora, attraverso una metafora. Io penso che Palermo si possa paragonare a un carciofo. Il carciofo è formato dalle bratte, come sappiamo tutti. Sì. L'insieme delle bratte si chiama cosca. Quando i carciofi si puliscono, le bratte dure si buttano. Quindi va via la parte più dura, più coriacea del carciofo. Rimane il cuore. E il cuore è la parte buona, sana del carciofo. Questa è rappresentata dai siciliani onesti, che vogliono sapere, si impegnano, studiano, sanno i loro doveri. Sì. E quindi possono reclamare i diritti, perché i diritti si possono reclamare, come lei saprà e mi insegna, solo facendo i doveri, no? Certo. I diritti. Questa non è un'immagine, quella del carciofo, che credo lo stesso Falcone, sì, no? No, sì, penso di sì. Io poi l'ho riascoltata certo, in un video. Sì, sì, certo. Perché sapevo il termine bratte, ma devo confessare la mia ignoranza. Non sapevo che l'insieme delle bratte forma la cosca. E quindi, ecco, Palermo è così. Però c'è una Palermo sana. Ma questo non c'è dubbio, Giuseppina. Cioè, nessuno che conosce i diritti, conosce prima di tutto i doveri, perché se non si conoscono quelli, i diritti non si possono reclamare. Certo. E allora, ecco questo. No, ma io la ringrazio, e questo nessuno lo mette in dubbio. Giuseppina, per il suo intervento, voglio andare a Brescia da Luigi. Buongiorno. Buongiorno. Dica. Ma io volevo dire che, prima di tutto, grande rispetto per Paolo Borsellino, che è stato un grande, però voglio dire, quello che si dice su Schifani, che non è una persona degna di ricoprire la seconda carica dello Stato, rosente il dipendio alle istituzioni, con tutto il rispetto per un fratello che è morto. Ma adesso vilipendio le istituzioni, è l'opinione di Salvatore Borsellino, si può dire se è una persona. Sì, è l'opinione di Salvatore Borsellino, però voglio dire, se Berlusconi o qualcuno delle compagne di governo avesse detto una cosa del genere, apre il cielo su tutti i giornali. E ora di iniziarsi ad indignarsi al contrario per ciò che sta succedendo nel nostro paese sotto certi aspetti. Faccio l'avvocato, scorrevo le pagine dei giornali in questi giorni sul tema delle intercettazioni, sulla P3 e quant'altro, sulle ricostruzioni che vengono fatte delle notazioni di polizia giudiziaria, e sono rimasto scandalizzato per quanto uno Stato, le garanzie dello Stato di diritto stiano sempre venendo meno. Allora, grazie Luigi. Ha sentito Borsellino a dire. Per un attimo, se sì, è possibile. Sì, sì, sì. Eccoci qua, Borsellino, per l'appunto. Diceva Luigi da Brescia: è sbagliato dire che Schifani sia una persona che non è degna di coprire quella carica, secondo il nostro ascoltatore. Guardi, io le dico, questa è la mia opinione, altri possono avere opinione diversa. Io quello su cui volevo intervenire, però, era quello che aveva detto Nuzzi. Noi non abbiamo proibito, non ci siamo arrivati il diritto di proibire a Schifani di venire via D'Amelio. È Schifani che ha scelto di non venire via D'Amelio. Se avesse fatto come Fini, che ha affrontato le contestazioni, perché è stato contestato quando è arrivato in via D'Amelio, però ha accettato di parlare e di spiegare, se dopo è stato applaudito, Schifani sarebbe potuto venire. È stata una sua scelta di fuggire e di andare a deporre la corona Quindi lei dice dopo aver detto non vengo, il fatto che si era sparsa la voce che stesse per arrivare è quello lì, il tranello, quello che avrebbe detto, cioè, infatti a noi era stato assicurato che il presidente Schifani non sarebbe venuto in via D'Amelio. Quando il corteo è partito, immediatamente dopo sono cominciate ad arrivare notizie, visto che arrivavano delle però se avesse se Schifani polizia, no ma se Schifani avesse Schifani. Se Schifani avesse detto voglio venire in via D'Amelio, sarebbe stato contestato, certo, e questo sarebbe stato gradita la sua presenza, sicuramente sarebbe stato contestato sì, però poteva venire, se avesse detto voglio venire, certo, ma noi non abbiamo mica recintato via D'Amelio, è stata una sua scelta quella di non venire per non affrontare la contestazione. le cose stanno così, cerchiamo di chiamare le cose con il loro nome. Noi non possiamo proibire a nessuno di venire in via Alameda, noi possiamo liberamente manifestare le nostre opinioni, e se fossero venuto Schifani sicuramente ci sarebbero state contestazioni. Non ha scelto di non venire, è una scelta sua. Secondo lei ci sono delle coperture sulla questione delle indagini? Cioè qualcuno dice c'è uno Stato che cerca di arrivare alla verità e un antistato, no? Questi poteri forti che vengono evocati, non si capisce mai a cosa si riferisce, a cosa ci si riferisce nello specifico, che vogliono evitare questa verità. Lei le vede, le tocca con mano? Guardi, io le tocco con mano, nel senso che di queste coperture, di questi depistaggi ci sono state, è stato accertato che ci sono state, ben c'è processi, sono state istruite sulle rivelazioni di un pentito, Scarantino, che era un pentito fasullo e pilotato, quindi che ci siano dei depistaggi e delle coperture, la cosa è... Non lo dico io, risulta dai fatti. Da questo punto di vista, Nuzzi, perché secondo lei l'80% dei nostri ascoltatori, è un sondaggio ovviamente che può lasciare il tempo che trova, insomma, votano, dicono, hanno sfiducia a dire non si arriverà mai a una verità, quella verità che Napolitano richiama, fare luce su questo, forse perché sono passati 18 anni, se non si è mai avuta prima, perché si deve pensare che si possa avere adesso? No, io credo che il motivo sia diverso. Penso che gli italiani, o almeno queste persone che hanno votato, la loro sfiducia nasce dal fatto che sta emergendo da tutte le indagini in corso, come dire, una zona grigia, una zona nera della storia del nostro paese, che sta riaffiorendo in maniera prepotente, di vita sotto traccia, di decisioni sotto traccia, di poteri forti che si muovono sotto traccia e che quindi non sono visibili nella quotidianità. E ecco che questo spiega il risultato del vostro sondaggio, nel senso sì. Che pensate anche, ecco, adesso io parlavo con Massimo Ciancimino qualche settimana fa. Stavamo mandando una cosa insieme, lui mi raccontava di questo interrogatorio che ha avuto a Caltanissetta sui personaggi dei servizi segreti che lui avrebbe visto o incontrato insieme al padre, no? E gli mostravano delle fotografie che arrivavano direttamente dagli archivi dei servizi di intelligence italiana. Ebbene, queste fotografie avevano dei numeri e non dei nomi delle persone, venivano indicati quindi perché arrivavano direttamente dall'AISI, no? Servizi segreti. Ecco. E dopodiché lui mi ha raccontato che dialogando con i magistrati siciliani aveva saputo che appunto che era stato posto addirittura il segreto di Stato sui nomi. Sì. Ora, il segreto di Stato, ecco, è un fantasma che si incomincia ad agitare anche in queste... Quindi per questo sarà difficile, o sempre più difficile, arrivare a una verità. Io devo concludere, Salvatore Borsellino. Ieri c'era Antonino Vullo, che io ho voluto citare, l'unico sopravvissuto della scorta di Borsellino. C'era alle manifestazioni in questi giorni? Sì, io ieri l'ho incontrato proprio in via D'Amelio. Come sta? Perché nessuno ne parla, nessuno lo cita, nessuno, sembra il fantasma, no? C'ha questa colpa, tra virgolette, di essere sopravvissuto e quindi viene dimenticato, non viene neanche citato. Ne parlavo ieri proprio con Vullo, cioè gli ho detto che forse lui avrebbe preferito morire, visto che da anni che continua a non poter dormire la notte, perché quando scende dal letto rivive la scena in cui, quando è sceso dalla macchina, ha dovuto calpestare i pezzi di carne e ha dovuto camminare nel sangue dei ragazzi che fino a un momento prima erano con lui. Sì, io Antonino Vullo, quando ho potuto, l'ho sempre invitato alle manifestazioni, anche ieri, l'altro ieri, in occasione del DVD che abbiamo presentato a Ballarò, con interviste ai magistrati che si occupano in questo momento di queste indagini. Lo avevo cercato per poterlo invitare come rappresentante appunto della scorta di Paolo, perché anche a lui che avevamo dedicato quel video nei titoli di coda c'è la dedica, proprio anche a Antonino Vullo, messo insieme ai ragazzi che sono morti nella in quell'eccidio. Purtroppo non sono riuscito a contattarlo perché intanto aveva cambiato il numero telefonico, però sicuramente quando presenteremo questo DVD a settembre probabilmente Antonino Vullo sarà invitato, sarà insieme agli altri parenti del, insieme ai parenti, sì, della, del, della scorta. Lui è una persona della scorta, io sono legato a lui da un profondo affetto. Io mi devo fermare qui, ringrazio Salvatore Borsellino e Gianluigi Nuzzi di Libero. Ci fermiamo, Sara Spreafico in redazione con Peter Bescapè in regia, do la linea Oscar Giannino come di consueto e noi ci troviamo domattina 7.30.